America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York. Mario Platero, vi avevo anticipato che oggi mi sarei occupato di politica, di elezioni, della candidatura di Jeb Bush, di quel che succede nel Partito Repubblicano, ma qui le notizie si inseguono a rapidità straordinaria, tanto è vero che ieri abbiamo avuto un nuovo candidato nel Partito Repubblicano. Non so quanti ne avremo alla fine, qualcuno dice che arriveremo forse addirittura a oltre 20 candidati, ma ieri si è candidato un personaggio che sono sicuro che conoscete bene: Donald Trump, il magnate immobiliare, il simbolo del lusso, anche, diciamolo, il simbolo un po' della cafonaggine o di un certo modo di essere un po' cafoni in America. E comunque è sceso in campo e sentiamolo. Ladies and gentlemen, I am officially running for President of the United States. Signore e signori, mi candido ufficialmente per la presidenza degli Stati Uniti. Faremo tornare grande il nostro paese. I politici parlano e non agiscono. Non posso più stare a guardare. Il nostro paese ha bisogno di un vero grande leader, ha detto Trump. Ecco, il vero grande leader sarebbe lui. Però, attenzione, in realtà Donald Trump non è che sia questo grande leader, o meglio, lo è stato sicuramente nel settore immobiliare, nel suo settore, però diciamo che non ha il profilo tipico del politico americano, anche perché Trump ha sempre sfruttato questa sua immagine di uomo del lusso. Ieri, del resto, nella conferenza stampa che ha fatto, ha detto: io sono un uomo ricco, sono un uomo che può permettersi di fare qualunque cosa, non posso essere corrotto, so davvero come mettere a posto le cose. Sì, lo sa, perché si è occupato anche di un programma televisivo che in qualche modo ha avuto sicuramente molto successo, ma di nuovo qui non stiamo parlando della presidenza degli Stati Uniti, stiamo parlando di entertainment. My name is Donald Trump and I'm the largest real estate developer in New York. I own buildings all over the place, model agencies, the Miss Universe pageant, jetliners, golf courses, casinos. Ecco, The Apprentice, l'apprendista. Donald Trump si divertiva ad avere un gruppo di giovani attorno a sé, ciascuno aveva un progetto imprenditoriale e poi lui alla fine licenziava tutti con durezza, li trattava malissimo e vinceva soltanto quello che aveva il progetto migliore. Perché vi sto raccontando tutte queste storie di Donald Trump? Perché la politica americana è anche un po' questo, è anche un po' spettacolo. C'è una probabilità che Donald Trump possa andare avanti in queste elezioni? Zero. Ma aggiunge colore come sul piano della politica lo hanno aggiunto Ted Cruz, lo hanno aggiunto Marco Rubio, un candidato più serio, ma anche lui ha avuto i suoi problemi. Insomma, questo gruppo repubblicano è un gruppo molto misto ed è in questo contesto di grande affollamento che finalmente Jeb Bush ha fatto l'annuncio della sua candidatura. And you and I know that America deserves better. L'America merita di più. Ecco, Jeb Bush è già partito con uno slogan e il suo slogan per le elezioni del 2016, non so quanto andrà lontano Jeb Bush con questo suo slogan. Ma arriviamo a discutere un momento della candidatura di Jeb Bush, perché tutti danno per scontato, soprattutto in Europa me ne sono accorto, che Jeb Bush sia il candidato repubblicano inevitabile. Ecco, la premessa è che sicuramente è il candidato da battere, però ha forti, forti resistenze all'interno del Partito Repubblicano. La sua non sarà una passeggiata. Ha cercato di prendere le distanze dal fratello, che resta così il colpevole di aver fatto la guerra in Iraq e di aver creato poi una devastazione nello scenario, nello scacchiere del Medio Oriente. Invece ha strizzato l'occhio al padre. Il padre resta un presidente piuttosto amato, un presidente saggio, un repubblicano illuminato che aveva importanti statisti a lavorare con lui. Ecco, il quadro dunque, un quadro non facile, abbiamo ancora molto tempo per le primarie, vedremo chi emergerà. Di sicuro Jeb Bush ha la forza politica, la forza in termini di denaro per poter andare avanti e ha una strategia molto precisa, seguirà quella di Romney, sa che la base del partito gli è contro, la base militante, quella dei repubblicani di destra, quella che è più attiva durante le primarie, cercherà di ostacolarlo, cercherà di premiare per esempio un Ted Cruz piuttosto che un Marco Rubio, ma la sua strategia è molto chiara, è quella magari di arrivare secondo o terzo, ma di riuscire ad arrivare secondo o terzo nella maggioranza delle corse elettorali e di vincerne alcune. In questo modo dovrebbe riuscire, questa è la sua strategia, ad avere alla fine la maggioranza e garantirsi così la nomination repubblicana. Io credo che alla fine uscirà Jeb Bush rafforzato da questo confronto e credo che resti in effetti il candidato da battere, però non date nulla per scontato e posso garantirvi che saranno in molti a cercare di sbarrargli la strada. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going!